peppina. Fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle. E poi dice: che caffè? Il caffè della peppina non si beva la mattina, né con latte né con tè. Ma perché? Il caffè della peppina non si beva la mattina, né con latte né con tè. Ma perché? La peppina fa il caffè col pepe e sale. L'aglio no. Perché? Fa male. L'acqua asciutta col petrolio, l'insalata senza olio. E poi provi col tritolo. Salta in aria. Stracatacata capo. Ah! Col caffè? Sai che la peppina non si beva la mattina, né con latte né con tè. Ma perché? Il caffè della peppina non si beva la mattina, né con latte né con tè. Ma perché? Ma perché?